fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Lo diciamo sempre, la nostra Restoradio Convento è aperta a tutti, solitamente, come è giusto che sia. Ospitiamo i protagonisti delle nostre serate, quindi i festeggiati, gli sposi, gli sposa che compie gli anni, insomma tante cose, ma abbiamo anche e diamo spazio anche ovviamente a chi ha voglia di provare questa esperienza o, come in questo caso, di tornare un po' sui passi di qualche anno fa. E non ha un'occasione particolare per festeggiare, ma sono venuto a trovarci, quindi con piacere gli facciamo raccontare un po'. Diamo il benvenuto a Grace. Oh, Grace, benvenuta o bentornata, come si suol dire, perché già lo anticipavo, diciamo che il microfono, la musica e la radio sono state parte della tua vita, o magari esatto. lo sono ancora sicuramente, come no, passione. Parte, diciamo, del mio passato. Bene, nel senso che non, comunque non ti abbandonano mai, quindi lo sono ancora. È sempre, infatti, nel mio cuore. Vedi che appena hai visto una luce, un microfono, non hai saputo resistere. Allora, intanto, Grace, da dove vieni? Vengo da Bedizzale, che è in provincia di Brescia, diciamolo, esatto. Visto che insomma, essendo una radio web, possono ascoltarci da parecchie parti del mondo. Ricordiamo anche, localizziamo anche i nostri amici, i nostri ospiti. E dicevi che sei una super affezionata del nostro locale, anche senza motivo particolare di festa. Sabato, di festa viene a fare un anche giro domenica. Qui. Anche domenica, non ti fai mancare nulla. No, menù completo. No, anzi. Facciamo così, visto che sei una habitué, come si dice, come dicono quelli bravi. Che serata preferisci e come mai? Allora, personalmente, non perché ci sia una serata meglio e peggio, però la serata che preferisci tu è come la domenica mai? Sera. Sì, e come mai? Ma forse perché c'è gente un po' più diversa, diciamo, un po' più mio ambiente. Oh, dai, raccontaci un po' allora cosa c'è anche la domenica sera, così ti usiamo come pubblicità in diretta per il nostro locale, dai. Allora, c'è da dire che c'è un grandissimo buffet e quindi si mangia molto bene. Bene. Poi c'è anche, diciamo, bella gente, grande, di bella compagnia. E poi devo dire una cosa, i barman, i DJ, tutto il personale. Siamo una grande famiglia. Sì, questo è veramente il nostro obiettivo, quello di ricreare un po' questo ambiente familiare. Ce la mettiamo tutta e ci fa piacere che ogni tanto ci riusciamo. Grazie davvero. Però ecco, torniamo a te. Dicevamo, raccontaci un po' anche di questa tua esperienza, di questo tuo lavoro passato che ha a che fare con questo mondo e la musica. Allora, io, vabbè, in passato ho lavorato nelle radio. Non dico nome giustamente per non pubblicizzare. Vabbè, ho fatto 20 anni di discografia, di cui io facevo interviste, e poi ho fatto 7 anni di televisione e presentavo 2 programmi televisivi, di cui uno Azzurrissima e Tutto Sport. Poi il più grande artista, diciamo, il più grande, sì. è stato Ligabue. Che ha intervistato? Ho intervistato. In che occasione? A radio dove lavoravo io. Ah, era un'intervista programmata esatto, per la tua radio. Sì. Ma è venuto voi nei vostri studi? È venuto lui nei vostri studi? Nei nostri studi. Dove? A Rovato. A Rovato, quindi proprio qui vicino, qui in zona. Sì, qui in zona. E come mai si trovava lì? O in zona? Lui era in tournée con le radio, facendo le interviste, e ho avuto la fortuna di intervistare pure lui. Un'altra grande artista che purtroppo oggi non c'è più, e mi dispiace molto, perché per me, Mia Martini, l'ho intervistata un mese prima. Sì, veramente una grandissima artista che non ha probabilmente avuto modo di esprimersi totalmente esatto. in tutto quello che aveva da dire, ed è veramente un gran peccato. E lei aveva dentro di sé tanto amore, purtroppo mai ricevuto. Sì, sono pienamente d'accordo. E hai avuto modo anche di parlare con lei? Sì, un mese prima. Ah, ok. E dici un po' cosa ti ha lasciato uno e cosa ti ha lasciato l'altra. Allora, Ligabue, a parte che lui era ancora agli inizi, era ancora con il gruppo. Che anno era, se posso chiedere? Nel 93. No, quindi proprio agli esordi, o comunque, sì, esatto. insomma, non agli esordi, non esordi, era ma Ligabue, poi dopo sai che lui è diventato solista, quindi... Certo. Però ecco, lui cosa mi ha lasciato Ligabue? Vabbè, a parte il suo sorriso, la sua simpatia, naturalmente. Beh, che essendo emiliano è di casa. Esatto, sì, infatti. Io le dissi, mi ricordo, sappi che siamo in diretta, non fare lo stupidino. E invece lui ha cominciato subito a mancare un po' di... Però vabbè, sono riuscita a contenerlo un attimino. Mia Martini invece, quando è stata nella radio con me, mi ricordo che con una mia collega le dissi... Guarda che occhi tristi che ha questa donna. E infatti gli si leggeva proprio, hai capito? Sì. E infatti quando poi quella mattina, mi ricordo, a casa, ero a casa e guardavo la televisione, ho avuto questa bruttissima notizia, non volevo credere, non volevo ascoltare, infatti chiamai subito la radio, dissi alla mia collega: ascolta la radio perché sta uscendo una notizia di mia Martini, che purtroppo è successo ciò che sappiamo tutti. Certo. Mi sono messa a piangere perché ho capito. Allora, io voglio dire soltanto una cosa a tutti quelli che mi stanno ascoltando. Io lavoro in questo, ho lavorato in questo mondo per tantissimi anni. Io voglio solo dire una cosa, che quando tu dai un titolo a una persona, tu non ti devi toccare le parti intime perché quella ti porta sfiga. No, purtroppo lei era e resterà sempre una grande artista. E mi dispiace molto che in questo mondo purtroppo ci siano ancora persone così superficiali che danno contro a queste persone, solo dal mio punto di vista, solo perché sono gelose, sono invidiose, perché mia Martini, non smetterò mai di dirlo, per me resterà sempre una grandissima artista, una grande cantante, una donna che non ha mai ha sempre avuto il coraggio comunque di affrontare qualsiasi cosa. Io vorrei dire a tutti gli artisti di questo mondo: allora, la musica è bellissima, è bella, perché io dico sempre che la musica è vita, ti dà gioia, le canzoni, però cerchiamo di essere umani l'uno con l'altro e non di darci contro queste cose, perché non serve a nulla, perché poi porta purtroppo a queste cose, che è la mancanza comunque di una persona. Sono pienamente d'accordo, veramente delle bellissime parole. Di palo in frasca, nel senso che adesso fai un'altra vita, completamente un'altra adesso vita, però è rimasto probabilmente il fil rouge, chiamiamolo così, della tua esistenza, il contatto diretto con le persone e la capacità di comunicare, anche se in un ambiente totalmente diverso e in un ruolo totalmente diverso. Che ti capita oggi, insomma, dove ti possiamo trovare? Allora, io faccio la barista. Ora, cioè, diciamo che la barista è sempre stato il mio secondo lavoro, la mia passione. Io canto, infatti io prima di arrivare qui vado al karaoke e poi arrivo da voi. Ah, brava. Sì, perché la mia passione, perché voi dovete sapere che io cantavo anche insieme all'orchestra di Liscio. Ah, ok. E dove vai a far karaoke? Vado qui, posso dire il nome? Al Blanco, qui vicino. Ah, qui. Ma cos'è? Tutte le sere, sabato sera? Venerdì e sabato. Ah, venerdì e sabato. Poi anche dove lavoro io, il venerdì sera anche noi facciamo il karaoke, un venerdì sì, un venerdì no. Che è molto più bello di quello del Blanco, vero? Esatto. Tre volte più bello. Tre volte più bello. Perché ci sono io. Niente, poi vabbè, a prescindere da fare la barista, però devo dirvi che nel mio cuore, nella mia anima, è rimasto il mio microfono, che io uso da quando ho 4 anni. No, oh, che bello, ma è così, è una cosa che poi ti prende dentro e non ti lascia mai, non ti può lasciare. Allora, come fai? Quando magari succede che ti sei innamorata, ti sei lasciata, poi quello ti ha, cadi in una crisi un po' buia. Beh, è capitato a tutti, ma è sempre la musica. E la musica che mi ha sempre fatto rialzare. Bellissimo, anche perché ognuno ha la sua valvola di sfogo e il suo salvagente a cui aggrapparsi. Posso dirvi una cosa? E quando è la musica è veramente bello. Dici? Posso dirvi una cosa? Certo. Se uno mi dice, mi fa una domanda, mi dice: cosa scegli tra un uomo e la musica? Io scelgo la musica. Difficile darti torto anche. Perché, perché la musica non mi deluderà mai. Vero, verissimo. Quindi, uomini all'ascolto, se non volete deludere la nostra Grace, dovete essere migliori della musica. Esatto. È difficile, eh? Esatto. Ricordatevi soltanto una cosa, che amare e sentirsi amati è la cosa comunque più bella al mondo. Però ci vuole anche coraggio, tante volte, per affrontare certe cose. Io con la musica ho sempre risolto le mie cose. Brava, bravissima. E sono felice così, credetemi. Bravissima, bravissima. Non sei sola perché ti accompagna, ho visto una, non lo so, amica, la mia amica Cristina, sorella, no, la gemella. La mia amica del cuore Cristina, di cui voglio molto bene. Io e lei andiamo molto d'accordo, io e lei ci rispettiamo, io e lei ci raccontiamo cose che tutte le persone oggi al mondo dovrebbero fare, anziché stare attaccati al telefonino tutto il giorno. Bravo, a messaggiarvi. Bravo. Altro parlatevi, bellissimo messaggio. Dialogate. Io mi ricordo quando facevo radio che chiacchieravo con voi, era bello. Invece oggi forse è un po' più triste vedere i ragazzi che, per dirsi due parole, si scrivono un messaggio. No, diciamocelo e guardiamoci negli occhi, perché è la cosa più bella al mondo, il dialogo. Altro bellissimo messaggio, sono completamente d'accordo. Allora, grazie Grace, grazie alla tua grazie accompagnatrice che ti ha insomma aiutato, ospitata. Vi auguriamo una buona serata e una buona festa. Ragazze, a presto e grazie ancora. Ciao! Ciao!